per il cappotto, non la spalla, ha avuto danni. Della serratura entrerò con un trombone. Leggo dal blog di Alessandro Giglioli, che è un giornalista dell'Espresso che stimo molto, una cosa che francamente non capisco, perché va bene essere contro Berlusconi, naturalmente è più che legittimo. Ognuno ha le sue posizioni e Giglioli è un noto blogger, un giornalista dell'Espresso, ma anche uno degli animatori del cosiddetto popolo viola. Allora, nel caso di Carlo Magno, secondo me, al di là di una considerazione che si può fare sul fatto che un ministro non è proprio il massimo che si alzi, vada da uno, lo dovrebbero fare gli addetti all'ordine di una sala, su questo non c'è dubbio. Però sentite cosa scrive: questa foto, con quella con la russa che prende per il bavero Carlo Magno, è l'Italia del 2010, un ministro della Repubblica che prende per il bavero un tizio che voleva fare una domanda sgradita al premier, il ministro della Repubblica che comanda le forze armate, che gode nell'usare la sua forza fisica, peraltro protetta dai suoi carabinieri, io non ho visto moltissimi carabinieri, comunque, per cacciare da una sala un cittadino disomogeneo. Scrive ancora Giglioli: questa è la fotografia perfetta del paese in cui viviamo. La forza, la prepotenza e il silenziamento muscolare del dissenso. Figuriamoci, il silenziamento muscolare del dissenso sarebbe il caso Carlo Magno, ma non scherziamo. Continua Giglioli: perpetrato in modo disintermediato, che non capisco, diretto dalle mani e dalle braccia di chi per un giorno torna a sentirsi giovane e per manganellare non ha più bisogno dei capezzoni, dei feltri, dei minzolini. Può farlo direttamente con le proprie unghie ficcate nel cappotto del dissidente. Lui stasera ne sarà orgoglioso e lo racconterà di ridendo ai suoi camerati. Noi possiamo solo vergognarci anche per lui di vivere in un paese così. Ancora sulla parola golpe, usata molto nei giorni scorsi. Quel decreto è incostituzionale, è sbagliato, è immorale, è un golpe. Togliere il partito che ha preso quasi 10 milioni di voti nell'ultima consultazione, io credo che questo è il golpe. Ci troviamo di fronte a un golpe istituzionale. Questo è l'aspetto tipico dei peggiori regimi. Non prendo tante lezioni, mi perdoni, da tutti questi signori che sono qui, di un governo che si è retto per 2 anni sul voto dei senatori a vita che non sono eletti dal popolo. Quello è stato un golpe. La parola golpe è una delle cose più ridicole che si sono sentite, credo, negli ultimi anni. Enrico Mentana ieri sera a commento appunto della parola golpe, sentite. Quando è stato varato il decreto, poi firmato da Napolitano, il decreto interpretativo sulla presentazione delle liste, c'è stato chi ha parlato di golpe, no? Di fine della democrazia. Ora, questo senso di golpe. Ecco, è il primo golpe della storia bocciato dal TAR, no? Non mai, cioè, per dare l'idea che non è seria, ma è evidente che non si è mai visto che si possa considerare una forza così soverchiante una forza che non riesce neanche a presentare la lista alle elezioni. C'è qualcosa di diverso. Chi lo dovrebbe fare questo golpe, suggerisce Ventana? Quelli che con milioni e compagnia non riescono manco a presentare la lista nel Lazio, anzi in provincia di Roma, gli effetti perversi della par condicio, sempre secondo Ventana. Se muore Obama, che succede? Toglie anche la possibilità al cittadino di informarsi su tutto ciò che non sono le elezioni, perché ripeto, se oggi si dimette Obama non ci sono solo le notizie nei telegiornali, perché nessuno può fare un programma, perché ci sono le elezioni regionali. Allora, con tutto il rispetto, folle, no, sì, per X e X e Y, i candidati Z, davvero non li, certo, posso citare, no? Ma volete mettere un candidato governatore della Calabria che impedisce che si parli delle dimissioni di Obama? Ma che senso ha, cari dirigenti del paese? Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato con tutta tranquillità. Gocce di fango su di me. Io non volevo un altro capo. 3, 5, non mi credi. 6, mai. 3, gocce 9. Di fango su di me e sul panino, ripieno di amarezza. Va bene, niente, avete sentito, non lo troviamo, Milioni, non lo troviamo. 800 24 00 24, telefonino spento, tanto risponde la segretaria, ma noi insistiamo. Roberto D'Ancona, buonasera. Io volevo fare solo tre semplicissime veloci considerazioni. Uno, su questo discorso credo che non si possa parlare di gruppo intero, partito intero, pieno di gente incapace, ma possono essere anche solamente le persone che sono in quel momento, la dabbenaggine di alcune persone creano queste difficoltà. Però mentre quando si dice che se un cittadino ritarda anche di un'ora il deposito di qualche atto giudiziario viene poi a perdere tutto, in questo caso se alcune persone per imbecillità o per faciloneria, quello che sia, sbagliano, in realtà loro non pagano, pagano tutti gli altri cittadini. Questo è la differenza. Cioè quali cittadini? Quelli che avrebbero quelli votato, che avrebbero dovuto votare, che non possono più votare. Questo è una cosa. Secondo, si tiene presente che forse potrebbe esserci, se si ripassa questo tipo di pensiero, dove la forma è meno più della sostanza, a lungo andare si potrebbe o avere corruzione e fare errori apposta, o addirittura, come terzo caso, si può creare dalle prossime elezioni in poi, qualcuno potrebbe creare degli ingorghi apposta, qualche incidente all'ultimo momento di qualcuno che sta trasportando le schede, e allora questo poi vale per tutti. Se io sono, per dire, un partito importante che vado contro Casini a Napoli, non lo so, dico per dire, perché lì è un partito Roberto, non ci ingarbugliamo, qual è, cioè, questa cosa? Non ho capito. Questo, se la forma vale. Ho capito, l'abbiamo già, però scusi, è una discussione che abbiamo fatto negli ultimi giorni, più volte. Alle prossime elezioni chiunque può creare piccoli incidenti in gonghi e far andare le altre liste in ritardo, e questo crea un precedente. E allora? Allora secondo me bisogna pensarci, la sostanza conta di più in questo caso. Ah, ho capito, questo vuole arrivare lei. Sì, cioè io voglio arrivare a dire che se voglio posso creare tante piccole... So, questa mi sembra un po' mi sembra un po' fantapolitica il fatto che si impedisca a qualcuno di non arrivare in tempo, insomma, mi sembra una cosa un po' folle. Però che, vista la corruzione che c'è in giro... Che c'entra la corruzione? Abbia pazienza, Roberto, con queste storie qua. La corruzione è un altro discorso. Lei dice si potrebbero creare degli incidenti per non far arrivare in tempo le liste a essere presentate. Insomma, esatto. Capito, ma siccome non succede, fino adesso non è successo, certo, ma non si vede perché non si vede perché dovrebbe succedere adesso, abbia pazienza. Questo crea un precedente, qualcuno ci può pensare. Qualcuno ci pensa, ma in questo caso... Poi c'è una cosa da dire, noi siamo sicuri che nelle altre elezioni questa non fosse una consuetudine? Cioè che nessuno avesse mai guardato realmente alla mezz'ora in più o alla mezz'ora in meno? Bisognerebbe sapere anche questo. Guardi, questo non lo so, credo di no, non lo so. Perché come mai tutto adesso e... Mi sembra abbastanza strano, no? Non lo so, Berlusconi dice che è strano, che è tutto un complotto contro il PD. Forse non questo, però una consuetudine che magari c'era, perché una volta che siamo dentro lì ho lasciato lo scatolone lì, io ho letto oggi su un giornale, non ricordo, che il giudice ha detto a una donna, il giudice dice sì, ma non sappiamo cosa contenesse lo scatolone, ma allora lo scatolone c'era. Probabilmente a me sembra troppo... Va bene, ho capito. Grazie. Questo. Cristina da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Mi scusi, non la sentivo. Dottor Cruciani, io volevo dire una cosa. Secondo me ci si sta ingarbugliando sulla vicenda dell'Anna Caprina, nel senso che ormai bisognerebbe prendere atto di quanto è accaduto. Io non credo né al complotto, credo che ci siano stati dei problemi che poi andranno valutati, eccetera. Andrebbe chiarita una cosa che fino adesso non è stata ben chiarita a tutte le persone che votano, che nel Lazio, io chiamo da Roma, gli elettori non è che non potranno esprimere il loro voto, gli elettori potranno esprimersi sulla candidata Polverini, fermo restando il fatto che la Roma e provincia non potranno esprimersi sui candidati delle liste. Guardi che questa cosa, Cristina, mi perdoni, sono 10 giorni che lo spieghiamo, non è una cosa ma nuova. Ma la gente che chiama mi sembra che non ce l'abbia ben chiaro come concetto. No, va ribadito come concetto il fatto... Un problema. Sì, no, ma certo è un problema, perché comunque la lista del più grande partito, che è quello in provincia di Roma, non c'è, e evidentemente c'è una distorsione del meccanismo elettorale, però, ripeto... può succedere. Assolutamente può succedere, però io credo che si stia ingrandendo oltremodo tutta la vicenda, nel senso che purtroppo è accaduto, poi saranno i magistrati a valutare le motivazioni per le quali è accaduto, che non andrebbero modificate le leggi, perché già siamo pieni di leggi e ci annodiamo su noi stessi cercando di venirne a capo ogni volta. Dunque? Niente, io sono preoccupata come cittadina, glielo dico francamente, perché mi sembra che si stia ingenerando un clima di troppa tensione, sia sociale e anche in famiglia. Io ad esempio voto a sinistra, a casa mia votano tutti a destra. E che succede in famiglia? Succede che con il clima di tensione che si sta instillando nel paese. Vi tirate le statuette, sono... le statuette del Duomo addosso, le statuette del Colosseo addosso. Non so. No, io sono contro la violenza. Però diciamo che a volte la distorsione di alcune notizie o la mancanza di informazioni, visto che poi ma guardi che in questo caso, mi scusi, in questo caso purtroppo su quello che è accaduto in quel corridoio non si farà mai chiarezza, c'è la linea di demarcazione, si poteva stare da una parte, si poteva stare dall'altra, c'è stato troppo zelo da parte di alcuni magistrati o comunque di chi comandava l'ufficio elettorale, sono stati troppo fiscali, quelli dove stavano, stavano fuori, stavano dentro, stavano fuori dal portone, che plichi avevano in mano, non si saprà mai. Guido da Roma, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione, siete veramente stimolanti. Volevo fare un commento su quello che ha detto il Presidente del Consiglio ieri per quanto riguarda la manifestazione per la libertà. E, io sono un elettore fondamentalmente di centrodestra, però sono un po' rimasto stupito perché ritengo Berlusconi una persona molto intelligente, eppure in questa situazione non capisco come si faccia a promuovere una manifestazione nel momento in cui le regole le stabilisce il Presidente del Consiglio, quindi poteva Non le decide proprio il Presidente del Consiglio, comunque. Sì, però poteva modificare la legge che determina un ritardo, che ha determinato un ritardo questa legge. Non è che si modifica prima sapendo che ci sarà un ritardo dopo, abbia pazienza con Guido, mi scusi. Cioè, nel senso, magari si poteva, io ho sempre fatto questo ragionamento, non ci si può lamentare per regole troppo rigide, eccetera, oppure per regole che riguardano le firme, quando poi gli stessi che si lamentano sono quelli che cambiano o che possono cambiare le leggi. Oggi in realtà Berlusconi ha detto altre cose, lei si chiede perché c'è la manifestazione, ma siamo in campagna elettorale, una settimana dalle elezioni. Il Premier ha detto oggi: la magistratura è politicizzata, ha dettato i tempi di questa campagna. Dunque, porcherie e disegno ben pensate. Quello di cui parlavamo prima con l'ascoltatrice, cioè, secondo Berlusconi, tutta questa storia non è nata, come secondo me è nata invece casualmente, cioè da una concomitanza di fattori, un magistrato magari troppo zelante, errori da parte dei presentatori delle liste, ma c'è un disegno. Ora, che all'interno di un ufficio elettorale, di un tribunale, si possa ordire un disegno contro la lista del PDL, questo mi sembra bizzarro. Siamo di nuovo qui con la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire il TG3. Berlusconi, l'esclusione della nostra lista frutto di un disegno ben pensato, Bersani è un disco rotto, pensiamo ai problemi del paese. Napolitano all'Università di Tor Vergata per un convegno sull'unità d'Italia, qui c'è una bella aria, commenta, altrove c'è la bolgia. Ho preso 1.700.000 euro, confessa ai magistrati l'ex senatore Di Girolamo, i dirigenti Fastweb e Telecom Sparkle dice sapevano tutto. In Cile la terra trema ancora, potente scossa di magnitudo 7.2 durante la cerimonia di investitura del presidente Piñera, allarme tsunami. Marcia indietro della Cassazione, un immigrato irregolare deve essere espulso anche se ha figli a scuola, preoccupazione dell'ONU. Ho commesso anche altri reati, Angelo Izzo, il killer del Circeo, ieri si è sposato e oggi ha deposto al processo per la strage di Piazza Fontana. Incubo frana in Calabria e Sicilia, famiglie senza casa nella zona di Messina dove è ricominciato a piovere, situazione allarmante a Catanzaro. Sky TG24. Crisi economica, Berlusconi ottimista, nuovo affondo a giudici e sinistra. Bersani risponde: nessun complotto, il Premier pensi ai problemi del paese. Napolitano all'università, qui si respira una bella aria, altrove è una bolgia. Clandestini da espellere anche se i figli vanno a scuola, lo stabilisce la Cassazione. Processo di Via Poma, il figlio e la moglie di Vanacore non testimonieranno. Napoli, boss dei casalesi in manette, i parenti aggrediscono i poliziotti. Emanuela Orlandi, mistero infinito, gli indagati per la scomparsa diventano tre. Pedofilia dopo Ratisbona, sospetti anche sul coro dei ragazzi di Vienna. Il Cile guarda avanti, Pinera si è insediato, ma continuano le scosse. Sarko Bruni, la coppia non scoppia, smentite le voci di crisi all'Eliseo. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. La teoria di Berlusconi. Il complottismo, potremmo dire, anche se è la versione del PDL, cioè contro di noi c'è stata una trama ordita dai magistrati insieme alle altre liste per bloccare la candidatura del PDL in provincia di Roma. Abbiamo presentato 93 liste identiche come presentazione alle due che sappiamo di Milano e di Roma. Guarda caso sono andate tutte regolarmente e bene. In quali situazioni invece è successo qualcosa? Per caso nelle due principali situazioni, quella di Milano e quella di Roma. Vi sembra un caso? A me sembra un disegno molto ben pensato. Ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità. E poi sentitelo con la piazza. Ci hanno fatto una e ci stanno tentando di fare una grande, insopportabile porcheria. La magistratura. La magistratura di sinistra, la magistratura politicizzata, quella che usa la giustizia a fine di lotta politica, ha dettato i tempi di questa campagna elettorale. Prima una pretesa Tangentopoli che non c'è. Casi singoli isolati si sono fatti passare come qualcosa di generalizzato. Noi non abbiamo bisogno di nessun finanziamento per il nostro partito. Abbiamo il finanziamento pubblico e quando il finanziamento pubblico non arriva ci pensiamo di tasca nostra. Sentite cosa ne pensa Berlusconi, sempre parole sempre che vengono dal capo del Partito dell'Amore sulla manifestazione della sinistra, o comunque insomma della sinistra. E vedremo sabato qui a Roma sfilare a braccetto il campione del giustizialismo Di Pietro, il campione della faziosità politica Bersani e la campionessa della cultura radicale La Bonino, tutti insieme in un'amalgama terrificante che è esattamente il contrario della nostra tradizione liberale, socialista, riformista, la tradizione che è alla base dei valori che sono alla base della fondazione della nostra Repubblica. E sarà nella maniera più assurda possibile, piazza contro piazza. Non si capisce ancora se il 21 o il 20, probabilmente il 21 il PDL, mentre il 13 il centro-sinistra. E via con la conclusione della campagna elettorale, piazza contro piazza. Di Pietro. È tempo di scendere in piazza, prima che sia troppo tardi, verso questo regime di ritorno che toglie ai poveri e dà ai disonesti, che toglie alle persone per bene e dà alle persone che fanno parte della cricca e della casta intorno al Presidente del Consiglio. Non rimpiangerle. Pannella è sempre il numero uno perché se ne frega di tutte queste cose. E la sua fissazione qual è adesso? Quella che ci deve essere un mese di campagna elettorale nel Lazio, dunque voleva rimandare le elezioni di un mese perché secondo questa costruzione radicale la campagna elettorale sarebbe stata inficiata, sarebbe irregolare, dunque bisogna avere un mese preciso di campagna elettorale. Dunque lui alla manifestazione di sabato no, ma probabilmente farà una riunioncina lì a Larga Argentina, una riunione del partito, non ci vado nemmeno per sogno. No, io sabato devo decidere ancora che faccio, faremo una bella riunioncina, Torri Argentine, eccetera. D'altra parte mi dispiace perché spero che il tempo sia buono, perché sicurissimamente quelli che sono là sono dei compagni che si trovano probabilmente non in condizioni di valutare quanto ci sia un errore nel, diciamo, volere impedire la campagna elettorale di 4 settimane a favore del vorace Silvio, e quello non si può mangiare pure gli altri 12 giorni e nessuno potrà impedirlo. Va bene, 800 24 00 24, torniamo sulla vicenda di Carlo Magno. Ci troviamo in questo modo con uno scontro a Mentana Condicio, nuova trasmissione di Enrico Mentana sul Corriere.it. La Russa versus Enrico Letta. Un ministro è un militante, un prima che un metteva... ministro. È un militante. Io sono diciamo ministro quella, militante. Che è ministro della difesa, no, debba io fare quella... ero questo il dirigente l'ho capito partito. Ma sei anche ministro sono della anche, difesa tu io, sei anche il papà dei tuoi io figli io credo che il ministro della difesa non debba fare una cosa come quella che ha fatto chissà io. Perché le è un modo parruccone di intendere vecchio oltretutto di all'estero e diano un'idea dell'Italia che ma in Italia sì. Succede guarda ci sono cose che avete fatto che danno una brutta idea dell'Italia c'è una... che non tornerà, non ritornerà. Dunque sono un ministro militante e anche se sono ministro della difesa posso fare quello che ho fatto, cioè intervenire fisicamente anche se gli ascoltatori scrivono aggressione, non è stata un'aggressione, mi pare di tutta evidenza, comunque intervenire fisicamente per cercare di impedire il chiasso di Carlo Magno, chiamiamolo così. Ancora la Russa sulla questione dei giudici di Che Guevara, questa stupidaggine del giudice che aveva un'immagine di Che Guevara messa per terra nel suo ufficio. Sentite. Questa che manca non è che è stata presentata che mancavano documenti. Un signore che è un magistrato, sbagliando, io non voglio parlare di complotti, spalleggiato da un altro magistrato donna, quello con la foto di Che Guevara, legittimo, ognuno si tiene le foto che vuole nell'ufficio pubblico, sbagliato, non parlo di complotto. Dice che era di un collega e hanno deciso per terra. Di violare le norme, ecco la violazione della norma, e ritenevano che fossero in ritardo, sbagliando, perché è stato dimostrato che erano in orario, con tutta la documentazione, dovevano fare quello che prescrive il regolamento, dovevano accettare la lista e scrivere accettata con riserva perché presentata in ritardo. Non hanno fatto questo, ne è nata una discussione infinita. Ma questa è la versione di La Russa. Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45. Eh sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato in tutta tranquillità. Gocce di fango su di me. Risponde 3 3 5. Sai, non mi crederai mai. Niente, ancora non c'è milioni. 19:34 800 24 00 24. Fabrizio, provincia di Torino, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, gli faccio i complimenti per come potrebbe condurre la trasmissione, caro Cruciani. Potrebbe addirittura fatto... complimenti perché lei lo sa che è più colto di me, vabbè. Sono comunque, più le voglio dire una cosa. Molto più colto di me. Perché, colto, non conosco questa parola. Vabbè, ha presente un cavolfiore quando è nell'orto, lo colgono, lei è uno di quelli. Allora, ascolti un attimo, voglio chiedere una cosa. Come mai lei è sempre così servizievole verso, che ne so, la potenza di un imprenditore che sta al governo e tutta sta gente così? Non fa mai un programma tipo stile Santoro, lei gli dà fastidio, gli elementi come Santoro lì gli danno fastidio. Perché, pronto? La sento. Mi sto mettendo le mani nei capelli, Sì, ma lei si deve mettere le mani nei capelli, perché dispiace a noi radioascoltatori sentire gente come lei che parlano così. E allora che cosa chiama a fare, scusi, Fabrizio? Come cosa chiama a fare? Perché mi piace il programma, sento appunto, allora non chiamo il telefono. E tu stai così, dà un fastidio alle persone che ascoltano, sentire sempre la Ma se a lei dà fastidio, ma perché chiama? La chiamo perché mi piace chiamare, mi piace rompergli le scatole. Ah, ecco, ho capito. Posso rompergli le scatole? Sì, infatti è in diretta e ci sta rompendo le scatole. Cioè, secondo me non ci sta rompendo le scatole, però insomma, se queste sono le rotture di scatole, va bene, viva le rotture di scatole. E viva le rotture di scatole. Allora, non ho capito, comunque. Fabrizio, qual è la critica? Non ho capito bene. Perché mi stanno antipatici Santoro e Grillo, a parte che non è vero, insomma. Sì, che è vero, dai, tutte le volte che si parla... Che ma no, parla... ma non conosco questa categoria, l'antipatia, la simpatia. Io perfino Cristicchi di Sanremo che dice le cose reali di questo paese. Cristicchi, figuriamoci se Cristicchi dice le cose reali di questo paese. Cristicchi gli dà fastidio, Ma non mi dà fastidio, secondo me dice delle stupidaggini, per come lo interpreta lì, io a me, personalmente, Personalmente, come ho visto la sua televisione un po' di tempo fa, sì, mi dava fastidio la situazione di Cristicchi, come la gestiva, no? Ma non mi dà fastidio Cristicchi, ho semplicemente detto che quello che penso sulle parole che ascoltavo di Cristicchi. Le parole di Cristicchi alla fine dei conti sono le cose reali, dei fatti di questo paese. Fabrizio, lei la pensa così, io la penso al contrario, cosa vuole che le dica? Lei la pensa al contrario, perché lei magari dalla sua posizione sociale può anche dire... Che c'entra la posizione sociale? Perché Cristicchi Cristicchi non mi pare che si presenti come il capolista del Partito Comunista dei Lavoratori, abbia pazienza. Ma no, non è questione di comunisti, ormai i comunisti non ci sono... No, ma ho capito, ma dove vuole arrivare Fabrizio con questo ragionamento? Ecco, io voglio arrivare a un ragionamento dello stile che bisognerebbe fare le cose in base... In base a che? A come si svolge la vita reale del paese. E la vita reale del paese la raccontano Santoro e Grillo, secondo lei? Gli altri sono tutti dei poveracci. Santoro può esporre qualcosa che gli altri non espongono. Vabbè. Fabrizio, continui a romperci le scatole, la ringrazio. Arrivederci. Pierluigi da Milano, buonasera. Buonasera, ciao dottor Cucciani, buonasera. Buonasera, dica. Allora, ma perché gli italiani stanno votando ancora Berlusconi? Ricominciamo, Pierluigi. Stasera siamo partiti alla grandissima. Insomma. Perché gli italiani votano Berlusconi? Beh, insomma, è un bel interrogativo. Se uno potremmo andare avanti per una ventina di anni, se vuole, a parlarne. No, ma dico, stiamo toccando il fondo, il famoso fondo. Allora, stiamo arrivando a fondo. Chi lo dice che stiamo arrivando a fondo? Allora, ieri, chi lo sostiene? Lei lo sostiene? Con un tono proprio alla grande, che appena l'ho sentito i brividi, il PIL 5-1, non so se l'ha detto lei o non so con lei, siamo arrivati al 5,1, cioè stiamo disoccupazione dilagante, le fabbriche chiudono tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti. Cioè è diventata una fede, è veramente la fede. Va bene, Pierluigi, poi che c'è? Allora, nelle regioni, 58% qui a Milano, in Lombardia già lo sappiamo, già la partita è chiusa, in Veneto non se ne parla proprio, e noi cosa gli diamo in contrapposizione? Un signore che neanche conosciamo. Il Penati sì, è bravo. Vabbè, però Pierluigi, mi sembra che stiamo andando su delle cose un po' senza senso, cioè le previsioni elettorali fatte da lei in Lombardia, noi contrapponiamo Penati a Formigoni che piglia 58, eccetera eccetera. La ringrazio. Francesca da Varese, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, io volevo dire solo due o tre cose, breve, succinta e compendiosa come piace a lei. Prego Francesca. Dunque, innanzitutto per il motivo dell'esclusione delle liste, cioè si è visto, si è sentito, penso che fino all'ultimo minuto ci siano state, diciamo, due, tre, quattro liste, i nomi in bilico, e quindi quello è il motivo, si è visto, no? Poi, riferito a questo, io vorrei tanto che lei riuscisse a trovare Milioni prima o poi, che le risponda, anche se temo che dopo la conferenza stampa del Premier di ieri sarà oltremodo difficile. E lo dico perché mi riferisco all'editoriale di oggi di Travaglio, no? Che riporta, secondo me, molto lucidamente, con il solito stile molto molto ironico, quando appunto Berlusconi dice che non c'è stata nessuna responsabilità, no? Nessuna responsabilità riconducibile al contrario di quello che si è voluto far credere, e che sono qui, cito, no? Quello che ha detto Berlusconi, per reagire all'assoluta disinformazione. Ecco, però c'è da chiedersi con chi ce l'avesse, perché i suoi giornali l'ha sentito oggi Berlusconi. Gli House Organ hanno riportato. Senta, gli House Organ, cosa c'entra gli House Organ? Scusi, a un certo punto hanno scritto loro: i responsabili degli errori sono indifendibili. No, infatti è così. DL Polli della Libertà, no? Ecco, adesso io capisco che lui allora... è con la magistratura, però perché non parla magari anche di altri magistrati come Toro, ad esempio? Di quei magistrati lì, di che cosa vogliamo dire? Quelli non sono magistrati che complottano, quelli vanno benissimo. Però poi l'ultima cosa, poi chiudo. Prego. Nel corollario degli epiteti che a lei danno tanto fastidio, che solitamente usa Di Pietro per definire il Premier, a me non danno fastidio, io ci gioco, ci rido sopra. Sì, infatti. Videla, sì, Lucifero, Hitler, cioè, eccetera eccetera, ce n'è uno fantastico che ha, non so, lei l'avrà letto immagino, il mattinale delle procure, come dice Cicchitto, Il piccolo Tejero, De Noantri. Piccolo Tejero, benissimo. Se lo ricorda chi era Tejero, cioè quel pazzoide... Sì, quello che provò a fare un gol per Spagna. Colpo di Stato nell'81. A lei diverte molto questa cosa del piccolo Tejero. No, sì, perché... Soprattutto effetti, ci crede lei che altri, Berlusconi sia un piccolo Tejero. No, al contrario, gli altri figuri effettivamente mettono i brividi nella schiena, cioè se penso a Mussolini o a invece Hitler, Tejero... In effetti, Tejero è, secondo me, poi il Tejero De Noantri, come dice il bravo Travaglio, sì, calza a pennello sulla figura anche, diciamo, per quanto riguarda la fisionomia di Berlusconi. Sì, al bagaglino calza benissimo. Quando è vestito proprio come un mafioso con la maglietta nera sotto. Al bagaglino, al bagaglino va benissimo. Tejero, quando è entrato appunto nel Parlamento esplodendo i colpi di pistola, cioè, a parte che vabbè, la cosa era abbastanza seria, infatti poi il re ha dovuto intervenire, no? Sì. Però, ecco, Francesca, lei non si ferma, sento. Questo accostamento mi è sembrato straordinario. Va benissimo, le è sembrato straordinario, ma è una roba da bagaglino, cioè da spettacolo di cabaret. Sì, insomma. Ma in effetti, cioè, è un disco, ha ragione Bersani, a questo punto è un disco rotto, no? Sì, ma che c'entri? Io sto facendo un'altra osservazione. Parlare di Berlusconi come Tejero, eccetera, è una cosa da bagaglino. Ma non è una cosa da bagaglino. Non Berlusconi da bagaglino, lo è anche in alcuni momenti. Ma insomma. I discorsi che fa non sono certo da statista. Perché non parla piuttosto delle cose che ha detto la Marcegaglia ieri o dei dati dell'Ocse? Quelle sono cose da statista. Sì. Evidentemente non sono così piacevoli come continuare a gettare fango addosso agli altri. Comunque, sempre in qualità di leader del Partito dell'Amore. E con questo la saluto e spero tanto che trovi milioni, anche se in effetti non ci credo molto. Va bene, Francesca. Buonasera. Grazie, ascolti un po' di più però. Vittorio da Napoli. Vabbè, Cruciani, ce l'ho fatta finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Io la stimo molto, perché lei è un giornalista, un professionista della comunicazione, che ha una qualità che è quella dell'obiettività, che non è condivisa da molti. Va però bene, poi passiamo avanti. Passiamo avanti, però devo rimarcare una cosa. Sull'articolo che ha scritto quel suo collega dell'Espresso, sul quale lei si è anche giudicato un ottimo giornalista, lei ha sfumato un tantino l'episodio. Adesso, al di là della censura muscolare che praticamente la Russa ha voluto dare, l'episodio va stigmatizzato, perché ma lei si rende conto che il capo delle nostre forze armate, un ministro, il quale, nonostante un servizio d'ordine che si è visto poi intervenire, che poi lui stesso ha zittito, prende per il bavero, giornalista, non giornalista, freelance, abusivo, maleducato, non, diciamo che questo non è importante ai fini del contenuto dell'episodio, ma lei non l'ha stigmatizzato o non lo vede come un episodio che veramente porta così in basso i valori di questa Repubblica? L'ascolto per radio. Sì, guardi, Vittorio può ascoltare finché vuole, ma sono le cose che abbiamo già detto ieri. Cosa vuole che stigmatizzi io? Cioè il fatto che la Russa si alzi dal palco dove parlava con Berlusconi, vada in mezzo alle persone e invece di fare intervenire uno del servizio d'ordine interviene da solo per cercare di mandare via Carlo Magno, non lo so, che devo stigmatizzare? Certamente non è un ruolo appropriato a un ministro, insomma, ce ne corre. Adesso, francamente, ieri abbiamo ascoltato Carlo Magno in diretta per 20 minuti e ci siamo resi conto di cosa stavamo parlando. Va bene, Nello da Salerno, buonasera. Salve, buonasera. Io volevo porle una domanda, cioè è la stessa domanda che mi sto ponendo io, ma non riesco a trovare una risposta. Cioè, mentre sabato ci sarà la manifestazione del PD, che può avere una sua valenza, visto che è una manifestazione fatta dall'opposizione, diciamo, contro il governo. Ma io mi chiedo una cosa, invece, la manifestazione del PDL, che loro sono al governo, contro chi la fanno? Cioè contro loro stessi. Guardi, secondo me non hanno senso nessuna delle due manifestazioni. L'unica cosa. In qualche senso, se lei crede nella Costituzione, penso che un po' di senso ce l'ha la prima. La seconda. La Costituzione proprio non c'entra nulla. Abbia pazienza, Nello, se io faccio notare. La Costituzione cosa c'entra con le manifestazioni dell'opposizione o della maggioranza? No, perché lo vorrei capire. Dell'opposizione, non della maggioranza. Ma cosa c'entra la Costituzione, Nello? È per la salvaguardia guardia della Costituzione, perché hanno fatto una cosa che è totalmente incostituzionale per il salvalista. Ah, ma questa è una sua posizione politica. Che no, è una posizione costituzionale. Ma che c'entra la cosa della posizione costituzionale? È una posizione politica. Secondo lei hanno fatto una cosa anticostituzionale, a parte che bisogna vedere se è anticostituzionale. Non è che lo decide lei, né lo decide la piazza, né il popolo viola, che è anticostituzionale. Lo decide la Corte Costituzionale, eventualmente. Ah, vabbè, allora così uno può dire anticostituzionale senza che lo decida la Corte. Ma la ABC della Costituzione. E la ABC, vabbè, ci inchiniamo al suo ABC della Costituzione, cosa le devo dire? Secondo lei è già anticostituzionale, comunque la manifestazione dell'opposizione è legittima, l'altra invece è anticostituzionale? Non lo so. No, assolutamente, non sto allora... dicendo questo, sto dicendo la manifestazione della maggioranza contro chi la fanno. Guardi, cioè, con me sfondo una porta aperta su questo, ma sfondo una porta aperta pure sull'opposizione, perché a parte che ormai non c'è più ragione di fare la manifestazione perché il PDL è stato escluso nel Lazio, ma fare una manifestazione contro l'atto di forza del governo, insomma, si fa la manifestazione perché c'è la campagna elettorale, ci sono le elezioni una settimana dopo, anzi due settimane dopo, questo è il punto, diciamo la verità, insomma, non c'è un altro motivo, è legittimo, mica dico che è un delitto fare la manifestazione, tutt'altro, ma si fa la manifestazione perché c'è la campagna elettorale. E comunque, guardi, Nello, la verità è io personalmente, poi la mia posizione sarà distante da quella di ascoltatori, io di appelli, manifestazioni, proclami, raccolte di firme, non ne posso più, non sono un modo di fare la politica che non mi piace, cioè, cosa vuole, a lei piacciono queste cose? Tantissimo, sì, lo so, purtroppo. Sono a Roma per la manifestazione... mica domani, domani c'è una manifestazione contro i tagli della Gelmini. Ah, lei va contro i tagli della Gelmini e poi il giorno dopo pure all'altra manifestazione. Fa il pieno di manifestazioni. È il minimo in questo momento di emergenza democratica. Emergenza democratica. No, vabbè, ma scusi, ma lei a lavorare non ci va, no? Domani aderisco allo sciopero, è sabato il mio giorno libero, quindi. Vabbè, certo. Sono un insegnante. Manifestazioni su manifestazioni. Certo, è il minimo. Il minimo. Certo, vabbè. Un momento di grossa difficoltà bisogna fare queste altre. Le manifestazioni servono nei momenti di difficoltà? Molto, anche perché c'è la e se mi dà la possibilità le spiego perché io penso che serva manifestare. No, ma serve mi dica, io sono curioso. Serve manifestare per un motivo molto semplice, perché ci si incontrano altre persone, si scambiano idee, si prendono appuntamenti per delle iniziative future, insomma. È anche un modo per ricaricarsi... trovare delle persone che la pensano per quello male. C'è Facebook però vabbè, ma Facebook è, diciamo, è inanimato, non è animato. È molto più bella la piazza reale che quella virtuale. Va bene, lei è amante della piazza, Anel? Moltissimo. Molto. Spero... che è bello, le bandiere, gli slogan, i cori. Ma le bandiere lasciano il tempo che trovano, è bello stare insieme. I cori, gli striscioni sono belli però, stupendi, bellissimi. Ce n'erano alcuni, anche i pupazzi di Berlusconi vestito da prigioniero, da carcerato, erano stupendi quelli, quello sta su Facebook. Bello quello, No, ma erano anche la manifestazione, erano. Come? Erano anche la manifestazione l'altra volta del Popolo Viola, quelli con Berlusconi carcerato. Ah sì, è simpatico comunque. Bello, bellissimo. Sì, ci vuole anche un po' di ironia, sì, figuriamoci. Va bene. Ricordiamo il mortadella del governo Prodi, quindi c'è da... Chi dirà quello che si mangiava la mortadella al Senato? Mortadella, spumanti. Spumanti vari. Sì, sì, certo, cose. Berlusconi carcerato è un'altra cosa, è simpatico, insomma. Simpatico, beh sì, perché no. Berlusconi, lei se lo augura magari che Berlusconi va a finire in galera? Ma se è colpevole, sì. Sì, perché no? Galera, certo. La galera, un po' di galera non fa male, no? Ma più per la galera io sarei per i lavori forzati, in verità. Cioè dovrebbe lavorare un poco lui, così come se ha veramente commesso... Perché solo i lavori forzati, Nello? No, lavori socialmente utili, non lavori forzati. Socialmente utili, scusi. Certo. Però io ho 30 secondi, li devo dare per forza. Eccoci, 19.50, 800 24 00 24. E abbiamo sempre l'ascoltatore da Salerno, Nello, che si augura per Berlusconi lavori forzati. No, lavori socialmente utili. Socialmente. Sì. Prima ha detto forzati, però ha detto no, forse è meglio No, diciamo, i lavori socialmente. Come termine è migliore socialmente utili. Più politico di correct, diciamo. No? Sì, esatto, mettiamola così. Invece il carcere va bene, insomma, il carcere mi sembra un... No? Diciamo, il carcere lo vedo come una forma di rieducazione. Quindi Berlusconi bisogna rieducarlo. No, è meglio rieducarlo con lavori socialmente utili. Certo. Comunque lei si augura che alla manifestazione di sabato ci siano tanti manichini di Berlusconi carcerato. No, non me ne può fregare di meno. No, però le piace. Qualcuno è simpatico. È simpatico, un manichino di Berlusconi in carcere. Non fa male a nessuno, dico una cosa del genere, no? No, se viene visto con ironia assolutamente no. No, no, infatti no. Il carcere di solito è una cosa ironica, insomma, su cui si scherza. Allora anche quando Berlusconi fa il simbolo di sparare quando ci sta la conferenza di Putin, a quel punto la che dovremmo fare? Dovremmo prenderlo sul serio, che stava... che immaginava che Putin sparasse. Sì, sì, ma infatti per carità, cioè, è, critica, insomma, è criticabilissimo. Mettiamola come goliardia. Goliardia, va bene. Sì, e se lei può far piacere Nello, sabato. Lei due, se lei può far piacere sabato? L'altro sabato c'è anche un'altra manifestazione. Insomma. Lei si fa pure quella, si fa? Eh sì, mi faccio anche quella. Visto il clima democratico. Ho capito, Nello, ma non sarà un po' una fissazione questa storia delle manifestazioni? Cioè, come andare allo stadio la domenica? No, un divertimento. No, è un divertimento. Comunque lei fa la manifestazione domani a Roma, di che facciamo il riassunto. Adesso mi faccio la manifestazione domani a Roma. Di che cosa? Che manifestazione è? Perché insegnanti. C'è una manifestazione di insegnanti. Alle 10 da Piazza della Repubblica e termina sotto al Ministero. Poi sabato Ma la manifestazione è finita perché dura 3 giorni con il presidio sotto al Ministero. Ah, 3 giorni dura? Dura, sì. Poi però sabato lei devia sulla manifestazione del Popolo Viola, no? Probabilmente. Popolo Viola, che poi non è solo quella del Popolo Viola, c'è Bersani, Di Pietro, eccetera. Probabilmente sì. Probabilmente, no, ma ha detto prima di sì, adesso tentenna. No. E poi non è che resta a Roma tutta la settimana, no? Perché dopo poi si ritorna al lavoro. E però il sabato successivo c'è un'altra manifestazione. Il sabato successivo si ritorna nuovamente a Roma. Vabbè, auguri, auguri. La ringrazio. Grazie a lei. Piero Sansonetti, buonasera. Buonasera. Come va? Va bene, va bene. Senta, ma com'è possibile che maggioranza e opposizione due settimane prima e la maggioranza invece una settimana prima fanno due manifestazioni? Io non ho capito ancora perché cosa, però me lo sa spiegare lei? Beh, l'opposizione contro il decreto Berlusconi che ripristinava la legittimità della lista nel Lazio, sì, però non c'è più ormai. Poi è stato cancellato. Berlusconi contro chi si opponeva alla legittimazione che però è stata al decreto che però non c'è più. E quindi diciamo c'è una situazione complicata perché come quando in matematica si moltiplicano molti meno, poi se sono pari diventano più, se sono dispari restano meno. Per cui si capisce bene, ma se vogliamo essere proprio sinceri, sono due manifestazioni elettorali, legittime, perché poi ci sono le elezioni e quindi è giusto fare manifestazioni elettorali, però certo molto lontani dal punto di partenza, perché il punto di partenza era una cosa già molto complicata, perché erano due manifestazioni a favore o contro la presentazione delle liste che... Di solito non si fanno manifestazioni. Di solito non si fanno, si vota sulle liste e si manifesta sui problemi. Invece dei problemi, ma a me pare non ne pari nessuno, perché io ne vedo tantissimi. E io troppo negli ultimi tempi è stata approvata una legge che praticamente cancella l'articolo 18 del Statuto dei lavoratori. Si è fatta una legge molto importante sul fine vita, quindi sulle grandi questioni della vita e della morte. È stata fatta una legge che finalmente introduce in Italia la terapia del dolore. Oggi ho visto la Corte di Cassazione ha fatto una sentenza in cui dice, in contrasto a una sentenza precedente, che si possono espellere i genitori dei bambini che vanno a scuola, sì, dei clandestini. Sì, sì. Io adesso propriamente ho detto 4-5 problemi che paiono enormi nella vita pubblica, nella vita di tutti noi e in quello quindi che fa la politica, no? Sì. Ha parlato della vita e della morte, della malattia, della presenza di stranieri in Italia, del lavoro, dei rapporti di lavoro, proprio tutto. Però c'è la grande mobilitazione. Se ne freghi, la mobilitazione è su tutt'altro. È una cosa veramente un po' curiosa. Senta, su questa destra e la sinistra non si affrontino su questi temi, che a me sembrano i temi cruciali. E ho citato proprio cose avvenute nell'ultimo mese. Quindi invece non gliene frega niente a nessuno. E tutti vanno... Comunque poi quando la gente va in piazza io... Lei è a favore, quasi sempre a favore della piazza. È da quando sono ragazzino che vado in piazza e quando si ho come una malattia, diciamo. Ci vado anch'io in piazza. A sentire l'ascoltatore di prima effettivamente è come una malattia. Senta però, Sansonetti, questa storia delle liste elettorali, no? Qui siamo di fronte a una cosa incredibile, cioè una versione dei giudici che in un certo modo, Berlusconi oggi parla di un complotto, non ci hanno fatto entrare, le linee per demarcare, ma com'è possibile che si è arrivati a una situazione del genere? Lei si è fatto un'idea, cioè ci sono stati, di chi è stato l'errore alla fine? Cioè, giudici troppo zelanti oppure incapacità? Cioè, cosa è successo? Perché è una cosa curiosa. C'è una catena di errori, io credo. C'è un'incapacità di chi ha presentato nel Lazio e in Lombardia le liste del centrodestra e poi anche in qualche altro punto del paese altre liste, però le due più clamorose sono queste, e io credo che anche in parte dipenda dall'idea, che io non condivido, è che la politica non è anche una professione, la politica è anche una professione, richiede anche capacità professionali e tecniche che probabilmente in queste due regioni, per esempio il centrodestra, non aveva, e quindi ha fatto un gran pasticcio. Poi su questo pasticcio se ne sono innestati degli altri, perché io francamente se avessi diretto il centrosinistra avrei detto ma vediamo come si risolve, insomma noi non ci opponiamo a una soluzione, perché bisogna opporsi a una soluzione, bisogna andare alle elezioni con tutte le liste possibilmente, ma se fossi stato nel centrodestra non mi sarei inventato quelle stupidaggini che sono state dette dalla Russa all'inizio, ora anche da Berlusconi, è un complotto, non c'è nessun complotto, hanno fatto un pasticcio che andrebbe risolto, perché è interesse di tutti che le elezioni si vada con tutte, perlomeno con le principali, siccome stiamo parlando diciamo in Lombardia, poi dopo è stata risolta la cosa, e dai giudici che hanno fatto, credo poverini, stavolta un buon lavoro, perché almeno lì l'hanno risolta, qui è stato impossibile perché la lista nel Lazio non è mai stata presentata. Ecco, però su questo Berlusconi oggi ha detto una cosa, il PM, cioè il magistrato, che non è un PM poi, quello dell'ufficio elettorale, doveva praticamente rincorrere i nostri, perché comunque si trattava del partito più importante, erano lì. E qui intanto Berlusconi vede un po' troppi PM in giro, che non era un PM, ovunque. Questo non era un PM. E questo non era un PM. Anche se la foto di Che Guevara là, che poi non c'entrava niente, pare che fosse. Sì, ma era pare di uno che veniva prima. Questa storia della foto di Che Guevara poi è una cosa pazzesca. Cioè, si è innescata tutta una polemica, pure gente serissima. Sì, era la rovescia, era messa giù, era forse di quello prima, e qualcuno ha detto, anche persone serissime, Maurizio Lupi, l'altra sera ho sentito, che diceva ci hanno impedito di presentare la lista dei giudici con i ritratti di Che Guevara in camera, ma che c'entra? No, non c'entra, ovviamente non c'entra niente, i giudici non hanno impedito, nel caso del Lazio proprio i giudici non c'entrano niente, non è mai arrivata sta lista e non si può inventare. Ora, detto ciò, io penso che la lista era meglio, è meglio se c'è, che si va su due lì. Se Berlusconi avesse detto questo, avrebbe detto una cosa ragionevole. Senta, in 30 secondi, qualcuno si avvantaggia di queste cose, secondo lei, in campagna elettorale? Sì, beh, in questo momento se ne avvantaggia il centrosinistra, poi bisogna vedere come va a finire. Io credo, Stefania Crazzi ha detto una cosa saggissima. Se il centrodestra avesse detto, scusate, abbiamo fatto una stupidaggine, però ora vediamo di risolverlo, perché in democrazia è bene essere almeno in due, secondo me anche se si è in più è meglio ancora, ma comunque almeno in due. Mi pare che ha ragione da vendere, ma nessuno gli dà retta. E lo stesso Berlusconi, ma insomma Berlusconi non può dire che è un complotto, dica che è una follia adesso andare a votare senza lista PDL nel Lazio, io gli do ragione se dice questo. Se dice che è un complotto ti fa arrabbiare, no? Hai fatto lo scemo, adesso chiedete scusa per l'errore e vediamo se si può risolvere. Io non so se si può risolvere, ma mi pare tardi. No, pare tardi. Però da una parte e dall'altra, appunto, io se mi date altri 5 minuti vi cito altri 70 problemi grandi che ci sono in Italia. E occupiamoci di quelli, Dio buono. Soprattutto partendo magari dalla sanità nelle regioni, ma abbiamo i telegiornali. Grazie, Sansonetti. Prego. Eccoci, il TG5. Regionali, Berlusconi accusa, c'è un disegno contro il PDL, tentano di farci una porcheria, ottimismo sulla crisi, è iniziata la risalita. Tremonti presenta la Banca del Sud, 620 sportelli sul territorio garantiranno accesso al credito e legalità per sostenere piccole e medie imprese. Riciclaggio, l'ex senatore Di Girolamo, per il servizio a Mockbell ho avuto un compenso di 1.700.000 euro, i vertici Fastweb e Sparkle dice sapevano della truffa. Dal carcere Rudy Guedè smentisce le dichiarazioni di Mario Alessi e per la prima volta accusa Amanda e Raffaele del delitto di Meredith. Dilaga il fenomeno delle violenze sugli autobus, ormai un'emergenza sociale, ogni giorno denunce di aggressioni e molestie da Milano a Napoli, da Roma a Palermo. Prima le elezioni, poi le vacanze di Pasqua, molte scuole resteranno chiuse più di due settimane, le acrobazie dei genitori, dove lasciamo i bambini? Va bene. La 7, va, cambiamo. Nel Lazio un disegno ben pensato, stanno tentando di fare una porcheria sul caos liste, nuovo affondo di Berlusconi che attacca magistratura e opposizione. La risposta affidata alla Bonino, Berlusconi fa l'agitatore della campagna elettorale come se il candidato fosse lui. Il mio compenso è stato di 1.700.000 euro, è quanto emerge dai verbali dell'interrogatorio dell'ex senatore del PDL Nicola Di Girolamo nell'ambito dell'inchiesta sul maxi riciclaggio che ha coinvolto anche Fastweb e Sparkle, società controllata da Telecom Italia. Altri due indagati per il sequestro di Emanuela Orlandi sono personaggi vicini al capo della banda della Magliana, Enrico Renatino De Pedis. L'accusa è di sequestro di persona aggravata dalla morte dell'ostaggio e dalla minore età della vittima, la stessa che ha raggiunto ieri Sergio Virtù, l'autista del boss. Nel giorno del ritorno alla moneta di un presidente di destra, il miliardario Pinera, nuovo forte terremoto in Cile con allerta tsunami nella regione di Valparaíso. La scossa di magnitudo 7,2 ha provocato seri danni nelle regioni centrali. Va bene, Maurizio dall'Aquila, buonasera. Buonasera, buonasera Cruciani, a lei e agli ascoltatori. Dica. Io avrei voluto fare una piccola provocazione. Sottolineare il comportamento del nostro ministro della difesa relativamente ovviamente a quello che abbiamo sentito finora anche da parte di altri ascoltatori. La provocazione è questa: se il nostro ministro La Russa fosse entrato in un fruttivendolo e avesse rubato un'arancia, l'avrebbero accusato di furto all'incirca un 6 mesi di carcere probabilmente. Se in questo atto avesse strattonato il fruttivendolo, lo avrebbe accusato di rapina e sarebbe andato a prendere probabilmente 5 anni. È una provocazione, però per sottolineare che se c'è un servizio d'ordine, se ci sono degli agenti di pubblica sicurezza, il pubblico cittadino non ha nessun potere ed è punito se agisce contro un'altra persona. Relativamente Lo sai che non l'ho capito però questo paragone, mi scusi. Cioè non ho capito questo paragone, cosa ha a che fare con l'intervento di La Russa nei confronti di Carlo Magno. Ripeto, avendo strattonato una persona non è come soltanto parlare a una persona o invitarla a uscire. Che cos'è? Violenza? Che cos'è? È una violenza fisica che... Lei dice, Maurizio. Giuridiche sottolineano con un aumento di pena non indifferente qualora... Maurizio, ma sta scherzando o sta dicendo sul serio? È una provocazione, ripeto. No, non è una provocazione, perché provocando uno vuole evidentemente comunicare delle cose. Se io, a parte che lo strattonamento è piuttosto relativo, non c'è stata né una spinta né nulla, abbiamo visto tutti cosa è stato. Ripeto, secondo me l'intervento è improprio, perché un ministro non si alza per andare a risolvere una situazione che potrebbe essere risolta e dovrebbe essere risolta dal servizio d'ordine. A parte che ci sarebbe stata una cagnara lo stesso anche se l'avesse fatto il servizio d'ordine, c'è qualcuno che avrebbe gridato alla censura, chissà quale altro provvedimento parafascista. Su quello non ci sono dubbi. Dopodiché non mi pare che sia successo niente di particolarmente violento, insomma, no, Maurizio? Sì, va bene, non è successo nulla di violento, però non è un comportamento che il ministro della difesa... Sì, ma non la metta sul piano giuridico, non la metta sul piano di cos'è lo strattonamento, perché non c'entra niente. Perché La cosa mi è venuta in mente perché La Russa magnanimamente diceva che non aveva denunciato... per ora, sottolineava per ora, non era stato denunciato il giornalista o lo pseudo giornalista, e mi ha fatto pensare, ascoltandolo, che sarebbe stato invece l'individuo che ha disturbato, che non doveva permettersi e tutto quanto, però che una volta essere stato strattonato è passato dalla ragione. Io non so se sia passato dalla parte della ragione, so solo che mi sembra che non ci siano gli estremi per nessun tipo di querela o a cose di questo tipo, insomma. Non mi pare di avere visto cose di violenza. Poi in Italia tutto è possibile, si può finire in tribunale anche per cose di questo tipo. La ringrazio. Siamo qui 2011 800 24 00 24. Dove andiamo? Rosy da Milano, eccoci qui. Buonasera dottor Cruciani. Buonasera, come sta? Bene, mi risollevi un po'. Lei. Sì, ha le mani dei capelli, perché ha le mani dei capelli anche lei? Ma io noto una cosa, che c'è un pressapochismo incredibile. Cioè, qui c'è gente che parla dicendo delle cose che sembrano delle cose enormi e poi sono delle piccolezze. Per esempio? Ad esempio, il signore di prima che diceva Berlusconi in galera. Ma siamo convinti che tutte queste operazioni contro Berlusconi lo porteranno veramente in galera. No, ma adesso al di là del fatto che lo porteranno in galera, no, Rosy, era curioso e quell'ascoltatore si prestava anche alla situazione. Ma certo, era curioso capire un po' la mentalità, cioè portare in piazza, io parlo di tutte le piazze, un manichino di Berlusconi travestito da galeotto, per qualcuno può essere una cosa scherzosa. In realtà, secondo me, ecco, nasconde una certa mentalità, ecco, secondo me, però anche mi posso anche sbagliare. Portiamo in piazza delle idee vere, ma questo giochino al massacro da una parte e dall'altra ci fa male a tutti, destra e sinistra. Però Rosy, mi perdoni, la stessa cosa si può dire, anzi si deve dire, per le frasi di Berlusconi per esempio di oggi o per le manifestazioni che ci saranno del centrodestra il 21, il 20. Berlusconi? Non faccia niente per il Lazio, faccia andare avanti le cose così. Poi dopo, una volta eletto, anche se solo da una parte il personale, la gente si renderà conto di come verrà governato. E allora sì che si potrà trarre. No, Berlusconi pensa che impostando ormai la campagna elettorale in questo modo pensa di ottenere un vantaggio, cioè gridando al complotto, alla mancanza della lista del PDL in provincia di Roma come una grave violazione delle regole, vogliono correre da soli eccetera eccetera, pensa che questa cosa, dire queste cose, porti un grande vantaggio. Magari ha ragione lui, lui è un grande oratore, non lo possiamo sapere. In certi versi mi capisca bene, solo in certi versi c'ha ragione. Che la storia dei giudici sia un continuo, sempre il giorno prima che avvenga un qualcosa, sempre il giorno prima. In questo prima caso non è avvenuto niente, scusi, è un dato di fatto. Ma non è successo niente in questo caso. C'erano da presentare le liste, delle persone si sono sbagliate. Esatto, si sono sbagliate. Pazienza. Allora, mi sembra di capire che Bersani però alcuni abbia nel centrodestra fatto questo gioco. Io non presento il controricorso in Lombardia se tu non presenti il controricorso nel Lazio. Signori, il fatto è semplice. Caro Berlusconi, dobbiamo fare una regione a testa, punto. No, non credo che sia così. No? Ci sono stati dei tentativi di accordo anche su Bologna, ma ormai la soluzione politica mi sembrava per il Lazio abbastanza complicata. Grazie. Prego. Rosy, Angelo da Roma. Buonasera. Prego, Angelo. Senta, no, appunto io ascolto sempre la trasmissione, è molto piacevole, però mi rendo conto appunto che molti italiani sono abbastanza credulosi, sembra che qui tutti i mali siano dovuti a Berlusconi, da quando Berlusconi è al governo, insomma, quindi un po' eccessivo. E niente, quindi ritengo pure che le manifestazioni sono un po' così, tirate alla buona. Quindi io sono dell'idea. Quindi abbiamo due di manifestazioni, però, una del centro-sinistra e una del centro-destra. Poi, appunto, no, mi vedo io, non erano 3-4, insomma. Perché no, ce ne sono, e poi se uno va a vedere, ogni giorno ce n'è una in giro per l'Italia. Appunto, cioè, in questo periodo di crisi ritengo, insomma, che le manifestazioni, anzi, sia più un'opportunità per il sistema paese non farle, insomma. Impegnare forze dell'ordine, insomma, bloccare il traffico, impedire la gente di andare a lavorare, insomma. Quindi lo trovo molto, molto, insomma, così. Una cosa semplicissima che risolve il problema delle manifestazioni. E tutto qui, insomma. Va bene, grazie. Bene, 20:16, 800 24 00 24. Ciro da Napoli, buonasera. Ciao Cruciani, come va? Sta bene? Non c'è male, prego. È dura stasera, molto. No, dura. Non è dura. Senta, prima di tutto le volevo fare una domanda non perniciosa. Ma lei è un giornalista? No, ma sul serio, non è nessun secondo fine. Non la conosco e quindi volevo sapere se è un giornalista o un conduttore. Un macellaio. Ah, via, Cruciani, sto facendo una domanda seria. Cioè, lei è un giornalista. Sì, non ci sono differenze per me. Comunque, che vuole sapere? Non ho capito bene. Se ho il tesserino da giornalista, Ciro. Non ho... Ah, ecco, no, volevo capire. Ho il tesserino da giornalista, ma questo che c'entra? Ah, no, niente. Volevo sapere per mia curiosità. Una curiosità. Va bene, mi scriva la prossima volta. Facciamo intervenire presto sulle manifestazioni e dire che sono perfettamente d'accordo che è una cosa veramente penosa. Sono due manifestazioni politiche di propaganda. No, ma si possono fare le manifestazioni politiche? No, infatti sono penose perché si mascherano per altro, cioè tra l'altro sono partite per una cosa che non esiste più, cioè una lista che non è mai stata presentata e ovviamente dei giudici hanno detto non possiamo decidere su un qualcosa che non esiste, quindi ci sta poco da discutere. La cosa che mi dà fastidio è che i craxisti, e io penso che sia uno di quelli. Che vuol dire craxista? Esiste una categoria che si chiama craxisti? Io sono convinto che siamo nell'era del craxismo già da parecchio tempo. Al massimo ci sono i craxiani. I craxisti sono quelli che i figliocci di craxi senza le palle di craxi. I figliocci di craxi senza le palle di craxi. Le palle di craxi, esattamente, esattamente quello. Interessante. Quelli che dicevano, come lei dice sempre, che la politica è sangue e merda, basta che la merda sia degli altri e il sangue pure. Vogliamo continuare con quest'andazzo, Ciro? Beh, però, Cruciani, lei... Ma di che sta parlando, Ciro? Non capisco di che sta parlando. Craxiani, sangue, citato Formica. Di che sta parlando, Ciro? Di cosa parliamo, in concreto? Parlando che in Italia l'unico che ha dato la cronaca esatta di quello che è accaduto è lei. E a me questa cosa mi sembra sconvolgente. A parte che non è vero. Ciro. La cronaca, guardi... L'unico che è riuscito a dare la voce di Milioni per primo la stessa sera che ha accaduto. La voce di Milioni è stata raccolta, questo lo dico per... Io l'ho sentita da lei la prima volta. Sì, ma però la voce di Milioni è stata raccolta da una collega di Repubblica TV che poi l'ha mandata su Repubblica TV e poi è stata ripresa da noi, ormai è diventato un tormentone. Comunque, Ciro, possiamo discutere. Lei non chiede niente, lei passa da un argomento all'altro senza senso. Perché ha deciso questa cosa così violenta, Berlusconi, della menzogna così spudorata del dire... Senta, la violenza è un'altra cosa, la menzogna spudorata in politica si mente tranquillamente, senza problemi, lo fanno tutti. No, la bugia è un conto, Cruciale. No, le menzogne e le bugie fanno parte del gioco della politica, anche se si fanno anche delle... se sono così scoperte come quella di oggi, è dire noi non c'entriamo niente, sono gli altri che hanno sbagliato. Ciro, anche secondo me le cose sono andate diversamente da come le espone Berlusconi. Le ripeto. Sì, ma ci sarà... c'è la decisione dei giudici. Lo scopo è quello di far passare. No, il disegno. Lo scopo è quello di far passare quello che è successo come una sorta di disegno contro il PDL. Dunque, noi siamo vittime di questo disegno, non ci vogliono far votare la lista del PDL a Roma, eccetera, eccetera. La ringrazio, Ciro. Le missioni impossibili. Eccoci, missioni impossibili, e certamente è una missione molto molto complicata quella di Roberto Fico, candidato del Movimento 5 Stelle di Grillo, dove? In Campania. Buonasera. Buonasera, salve. Come sta? Bene, molto bene. Senta, contento. Lei è contento di che? Contento di come stanno andando le cose, di quest'atto democratico che hanno fatto i cittadini della Campania. Qual è l'atto democratico? Aver raccolto 13.000 firme per presentare altri cittadini alle elezioni regionali, cosa che penso che non avveniva da molto tempo. Come l'avete raccolta queste firme voi? Con i banchetti, con i permessi ai banchetti, con gli autenticatori, cioè la procedura classica che si complicata, deve fare. No? Complicata. Sì, è molto complicata, però se viene messa a disposizione in tempo giusto dalla regione i moduli per raccogliere le firme, è una si fa tranquillamente. Oltre che si fa tranquillamente, ma tutela tutti quanti i cittadini, perché io penso che tutti dovremmo partire sempre dalla stessa linea per poter presentarci. Senta, voi vi siete presentati, come funzionava là? Dovete andare a stare all'ufficio elettorale? Vabbè, dipende dalle province, naturalmente. No, perché siccome la legge elettorale è cambiata in Campania, è nuova, i partiti hanno si sono scritti una norma che non devono più raccogliere le firme loro. Però forse hanno ragione quelli che dicono che ogni regione ha la sua legge e dunque non si può fare una normativa, diciamo, che vale per tutte le regioni, No, perché da un anno le leggi elettorali sono passate alle regioni, quindi una parte le hanno uguali, come la Campania invece c'ha le elezioni dirette del presidente e del consiglio, vale anche il voto disgiunto, e quindi è un Senta, ma quest'altra follia che c'è stata in Campania, caro Fico, anche voi siete stati costretti a farla, cioè nelle liste ci deve essere un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna. No, non funziona così. Nelle liste ci deve, no, non funziona così. Nelle liste non ci deve essere un uomo e una donna, è sul voto che ci deve essere. Sì, sul voto, mi scusi, sul voto, lei ha ragione. Sì, su. Ha due preferenze. Sì, due preferenze, uno deve mettere un uomo e una donna. Se uno mette solo un uomo o solo una donna, il voto è annullato. No, è annullata la seconda preferenza, ma il voto rimane valido, perché in realtà funzionava così. No, il voto rimane valido, ma è annullata la preferenza, però. È annullata la seconda preferenza. Scusi un attimo, se io metto solo un uomo, vale? Sì, certo, vale. E solo una donna, vale naturalmente. Vale lo stesso. Se lei mette due uomini non vale. O due donne, viene annullata la seconda preferenza. Ah, la seconda viene annullata. La seconda, perché in realtà prima c'era da mettere solo una preferenza e quindi si diceva un uomo o una donna. Ora hanno dato due preferenze, però rimanendo del fatto che... Sì, sì, ho capito. Senta, Fico, mi sembra preparato lei su questa cosa qua, avete studiato bene le cose. Eh no, per forza, perché sennò non ci saremmo mai potuti presentare alle elezioni, perché... Sento una cosa, ma insomma, alla fine io ho parlato di missione impossibile, voi quanto pensate di prendere? Vedo qua, però siete quotati al 5%, insomma, lei quanto arriverà? Quarto? No, quarto arriverà. Quanti siete in Campania? Quanti siete? Quattro siamo. Quattro, c'è. Allora ricapitoliamo: De Luca, che è quello del centro-sinistra più l'Italia dei Valori, che lo appoggia, adesso parleremo di questo. Esatto, poi Caldoro, c'è Caldoro, col PDL e altre liste. Poi c'è Ferrero, Federazione di Sinistra. Ora Ferrero, caro lei, lei si può votare? Cioè, lei, Roberto Fico, può votare Roberto Fico? Certo, sì. Perché lei è residente a... Io sono, in quel senso là, no, io sono residente fuori da Campania, ma sono domiciliato in Campania. Vabbè, qui lei non si può votare. No, non mi posso votare. Ma si rende conto, Fico? Lei non si può votare. No, non mi ho capito, votare. Ma almeno il Movimento di Grillo poteva presentare uno campano, adesso non lo dico senza offesa. No, io sono campanissimo. Ho capito, ma non si può votare, non si può votare. Allora, almeno lei è campano. Già, no, ma non solo sono campano, già va meglio. Sono domiciliato a Napoli, vivo a Napoli da qua da sempre. Però non si può votare, che è curioso. Vabbè, ma qual è il problema? Vabbè, lei che è candidato presidente in Campania non si può votare. Ammetterà che è un po' curioso o no? Ma lo sa che io dei tre presidenti che ci sono, sì, sono l'unico nato in Campania. Sono l'unico. Che De Luca dove è nato? De Luca dove è nato? Mi sembra che è nato, cioè sicuro fuori regione, però non so. Ma non so, credo che sia nato a Salerno. Secondo me è nato a Salerno, De Luca. No. Come no? Adesso andiamo a controllare, tanto è facile. Basta mettere su Google. Ma Caldoro pure sarà napoletano. No, Caldoro non è nato in Campania. Ma come non è nato in Campania, Caldoro? È nato in Campania. Vabbè, adesso andiamo a controllare. No, mettete su Google. Ferrero sicuro. Ferrero è l'altro, un'altra follia. È uno che si piemontese che si presenta solo per... No, fare l'unica disturbo. Follia, perché nel senso io vivo in quattro. Vabbè, lei oggettivamente Fico sempre. Fico, sì, per carità, lei è campano, si sente pure dall'accento, però no, ammetterà, no, proprio... ammetterà, mica è un delitto, ammetterà che un presidente che non può votare se stesso è un po' strano. Ma non, cioè, è lei domenica mattina, domenica e lunedì 28 e 29, in teoria dov'è residente lei? Il Lazio. Il Lazio dovrebbe andare a votare, dovrebbe andare a votare per la Bonino, per la Polverino, per non so chi altro. Lei va a votare? Va a votare? È da molto che non, da almeno 3-4 anni che dico che non vado a votare, a parte che l'ultima elezione ho votato l'indipendente Luigi De Magistris e Sonia Alfano. Vabbè, però, ma quello che c'entra. No, per dire così, però nel Lazio non sarei andato mai a votare. No? E anche in Campania. Manco la Bonino avrebbe votato nel Lazio. No, assolutamente. E neanche in Campania sarei andato a votare se non ci fossimo candidati noi. Ecco, ma siccome Grillo è vicino, adesso dico vicino così per capirci, alle posizioni di Di Pietro, e Di Pietro in Campania appoggia l'Italia e appoggia De Luca, perché voi avete presentato una lista autonoma? Domanda. No, uno perché c'è una differenza totale. Vabbè, c'è una differenza, lo so, però no, insomma. No, una differenza no, totale, non una differenza piccola, sottile, una differenza totale tra un movimento come il nostro e un partito anche l'Italia dei Valori. E poi, stando sempre in Campania, io conosco bene le dinamiche di Italia dei Valori in Campania, e una cosa è che Grillo non è un leader, siamo tutti quanti in rete e costruiamo un progetto, e una cosa è che Grillo su dei temi come dei cittadini normali sono d'accordo con Di Pietro su alcuni temi, e una cosa è poi quando qualcun altro come Di Pietro fa delle scelte. Però voi vi siete candidati soprattutto, no, questo l'ho capito che c'è una differenza, Fico, però bisogna dire la verità, voi avete insistito molto per candidare qualcuno in Campania perché non vi piace De Luca, diciamo la verità, insomma è così. No, questa è una bugia. Noi ci saremmo candidati sempre, perché quello è il comunque vi sarete candidati comunque. Sì, sì, perché noi stiamo cercando di creare un qualcosa di diverso, totalmente metodologicamente diverso, nel lavoro che è in rete, che è carico di esperienze, di costruzione. Vabbè, in qualche secondo, lei poi la richiamo dopo la borsa, mi dia una definizione dei suoi avversari. Secondo lei De Luca chi è? In una battuta, in una definizione velocissima, rapida, un flash. Sì. Allora, De Luca, è una persona che ha un'idea del potere personalistico, che cerca di gestire in maniera personale e quindi senza condivisione, senza partecipazione cittadina. Vabbè, uno che vuole gli piace molto il potere. Sì, è proprio così l'aberrazione della politica. L'aberrazione della politica. Vabbè, io quello volevo, l'aberrazione della politica. Caldoro. Caldoro è un tipo un prestanome. Prestanome di chi? Dei Casalesi? Dei Casalesi? È un prestanome del partito. Prestanome del partito. Del partito, sì. Poi Ferrero, Ferrero un intruso? Ferrero è un intruso. Ferrero, cioè, Rifondazione Comunista è in un momento di crisi. Sì, ma lasciamo perdere. Ferrero, che ci fa là? Piemontese, che ci fa là? Questo, perché Rifondazione Comunista è in crisi e quindi non riesce a esprimere persone valide. Hanno dovuto fare riferimento al segretario nazionale. Ma anche lì stanno lì per rompere le scatole a De Luca? Stanno lì perché non sono tranquillamente a fare diciamo il loro mestiere di partito. Non vabbè, è troppo diplomatico, figo, dovrebbe essere un po' più... No, sto scherzando. Lei ha ragione però, De Luca è nato in Basilicata, provincia di Potenza. De Luca è nato in Basilicata. E Caldoro è di Campobasso. È di Campobasso, bene. Ferrero è piemontese. E Ferrero è piemontese. Lei invece è campano, però non si può votare, si rende conto? Sì, siamo in una situazione complicata, cioè, allora, De Luca è nato in Basilicata. Caldoro di Campobasso, Ferrero piemontese io e sono Figo campano l'unico Napoli, campano, però non si può votare. Campania. E però non può votare se stesso. Vabbè, non c'è problema, perché tanto superando il 5% non ci sarebbe il voto mio. Le missioni impossibili nelle regioni, siamo con Roberto Fico, che è esponente, anche se esponente è un termine un po' da vecchi partiti, comunque candidato del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo in Campania, che dovrebbe arrivare in teoria quarto, però non si sa, potrebbe arrivare anche prima di Rifondazione Comunista, o comunque del candidato della federazione di sinistra, che è Ferrero, insomma, se la batte lì, certo, i primi due mi sembrano irraggiungibili. Senta Fico, le faccio ascoltare quello che De Luca dice di Grillo, che è sostanzialmente l'ispiratore della vostra lista. De Luca. Ho visto che nei giorni scorsi è andato Beppe Grillo a fare l'ambientalista ad Acerra. Quando io vedo questo saltimbanco che si prende, credo, 60.000 euro a comparsata, perché poi tutti questi rivoluzionari, questi sono degli irresponsabili, che campano di parassitismo. Questi nella vita non sanno che fare. Lei che fa nella vita, Fico? È carinissimo De Luca, bravissimo. Beh, cioè, però ha questo accento, questo sì, modo di parlare molto autoritario. Di sottofondo, se un giorno facciamo un bel montaggio, ci potremmo mettere questa musichetta qua. E che musica è? Non ho capito niente. È una musica di un film. Poi no, me la rifaccia, me la rifaccia. Che com'è che fa? E che film è? Che film è? È un film di Tornatore, uno dei primi film di Tornatore. Vado a cercare. Adesso lo vado a cercare. Senta, ma lei quanti anni ha, Fico? Non gliel'ho chiesto all'inizio. Quanti anni ha? 35. Di mestiere che fa? Allora, di mestiere, l'ultimo lavoro che ho fatto, mi occupo comunque di comunicazione, eventi, lavoravo, dirigevo una società di ristorazione in un hotel, personale, eventi e cose varie. Perché adesso poi, non lo fa più. No, in questo, vabbè, ma non è stato per questo, perché poi avevo optato per una vita più tranquilla e quindi... Che vuol dire una vita più tranquilla, senza lavorare? La 12-13 ore al giorno lavoravo, era veramente pesante e quindi poi... E dunque adesso non lavoro? Adesso è molto più pesante, però ha un valore aggiunto veramente nella società, una cosa del genere. E quale sarebbe, scusi? È diverso. È lavorare sul territorio, fare progetti per la collettività. No, ho capito, però uno un mestiere ce lo deve avere, oppure lei è un politico vuole fare il politico di professione? No, mamma mia, è una scocciatura il politico di professione, tutta quanta la vita. No, io ho un bed and breakfast a San Felice Circeo adesso, attualmente, dopo che ho lasciato quel lavoro lì. Ah, ho capito. Dunque, gestisce questo bed and breakfast? Sì, adesso vabbè, in questo momento no, perché c'è troppo impegno per fare questa cosa qui, che è nata ad ottobre, più o meno candidature e movimento, abbiamo fondato a ottobre il movimento, anche se ormai erano 5 anni che però stavamo sui territori a lavorare. Benissimo, senta Fico, due domande velocissime sulla Campania per capire se lei conosce la cosa. Quanti abitanti ha la Campania? La Campania ha circa 6 milioni di abitanti. Circa 6 milioni, giusto. È la seconda regione d'Italia. 5.820.000, giusto. Esatto. Quante isole ha? Quante isole ha la Campania? Ne ha Ischia, Procida e Capri. Ne ha 3, se poi non consideriamo i Galli che sono isolotti. Cioè, ce ne sono... No, non sono 3 le isole. Sono 3 isole principali. Ischia, poi? Ischia, Procida e Capri. Ivara, che è vicino Procida. Perfetto. E poi abbiamo i Galli che stanno tra Positano e Sorrento. Cos'è Nisida? Nisida? Vabbè, ma Nisida la considero Napoli. Vabbè, ha superato l'esame. Grazie, buona serata. A lei, grazie. 20:37, 800 24 00 24. Non è caduto sulle domande così basilari sulla Campania, ma va bene così. Alfredo da Roma, che non è Alfredo Milioni. Buonasera a lei e gli ascoltatori. Anche se c'è una voce un po' simile ad Alfredo Milioni. Spero di no. No, okay. Comunque guardi che la voce di Alfredo Milioni mi ricorda la voce di Aldo Fabrizi. È una voce simpatica, guardi, veramente è una voce, mi ricorda Aldo Fabrizi. La vogliamo riascoltare? Che dice? La riascoltiamo, guarda che non è lontana da sua la voce. Mi farebbe piacere, perché Aldo Fabrizi. Sentiamo Milioni. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati? In macchina. Quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquilla. Guardi Alfredo che la voce è uguale. È uguale, vabbè, mi fa piacere, che le devo dire. Comunque mi dicono che la mia voce si riconosce. Eh sì, è un timbro particolare. Vabbè, che ci vuole dire Francesco e Alfredo? Che c'è confermavo quello lì, per me è una certezza, se... Berlusconi che sta partendo di nuovo alla carica, affermando di avere nemici, che ci sono i comunisti, sta chiamando i suoi a raccolta, perché lui sa con i suoi sondaggi quello che vuole il suo popolo. Il suo popolo vuole sentirsi dire questo, e lui questo momento di difficoltà, e guardi che i punti che ha li recupererà sicuramente, perché lui punterà solo su questo. Griderà solamente che è da qui alla fine della campagna elettorale. Sì, recupererà sicuramente, guardi. Vabbè. È una certezza, come l'ultima volta. L'ultima volta lui ha cominciato a testa bassa a parlare in questa maniera, è una vittima, i giudici, è visto, già è partito, no? Poi come Milioni conferma, insomma, voglio dire, bastava che dicesse come la cosa, come hanno detto molti elettori del centrodestra, bastava dire purtroppo c'è stato qualche problema, chiediamo scusa agli elettori. E basta, voltiamo pagina, adesso non ci siamo, perché poi si gioca molto, vedi, non vogliono come in Russia solamente una lista, insomma, poi a Roma, come ha detto lei, solamente a Roma e provincia, che poi i voti andrebbero alla lista della Polverini o all'UDC, perché l'UDC a Roma appoggia anche a Storace, certo, ma anche all'UDC, anche, voglio dire, i voti non vanno dispersi, la Polverini, chi è da Polverini la vota e vota anche questi altri. È anche vero che la lista del PDL a Roma, sono arrabbiatissimi quelli che erano in lista. Lei si immagina la gente che ha costruito, leggevo oggi, di un consigliere provinciale a Roma che si è dimesso, uno che prende anche un sacco di voti, si è dimesso da consigliere provinciale perché insomma doveva essere candidato al consiglio regionale e non so perché si è dimesso prima, un caso unico, nessuno si dimette prima, lo hanno costretto, adesso non so bene, alle dimissioni, comunque se n'è andato e adesso non può essere votato nel Lazio, per cui ci sono anche carriere politiche a rischio, eccetera eccetera. Ma insomma, noi ce ne freghiamo che sia a rischio queste carriere politiche, però è evidente che qualche voto mancherà lì nel Lazio, in provincia di Roma, no? Qualche voto sì, ma saranno minimi, guardi, perché se Berlusconi parte così andranno a votare comunque. No, ma chi vuole votare la Polverini è evidente che può andare là a votare la Polverini e non votare nemmeno una lista, questo è chiaro, oppure votare anche per le altre liste che appoggiano la Polverini, questo mi sembra evidente, però non c'è dubbio che ci sarà una dispersione di voti in provincia di Roma. Qualche cosa perderanno, comunque lì il problema qui nella lista di Roma, il problema è all'interno del PDL. C'è una guerra perché alcuni non volevano la Polverini candidata e altri poi perché lì Milioni è venuto via per sostituire qualche nome. No, però Alfredo, la questione della Polverini mi sembra superata, più lotte interne, sì, ma non sul nome della, certo, Polverini, no, per altre cose. Certamente c'è qualche altro candidato, ci sono dei mal di pancia, ci sono dei mal di pancia. Però come ha detto su a Milano Formigoni, ha detto adesso andiamo alle votazioni e poi dopo tiriamo le somme. Va bene, grazie, grazie Alfredo. A lei buonasera. La voce di Aldo Fabrizi, però no, è più vicina a quella di Milioni, secondo me quella di Milioni poi non assomiglia nemmeno ad Aldo Fabrizi in realtà. Qualsiasi voce romanesca un po' con un certo timbro uno l'avvicina ad Aldo Fabrizi, no, non c'entra niente, anche degli ascoltatori me l'hanno suggerito, ma secondo me sono due cose diverse. Gabriele, provincia di Como. Gabriele? Sta mangiando, sì, forse? Sta mangiando? No, ancora no, fa ancora poco. No. Cosa, chi ha cucinato a casa sua? No, no, sono in un autogrill. In un autogrill addirittura? Sì, addirittura. E che, lavoro in giro. Che mangia? Ma la fiorentina, che non è ancora pronta però. La fiorentina in autogrill, beh, insomma. Sì, ci si deve adeguare, accontentare. Certo, mi dica. Niente, io la chiamavo perché appunto sono... È un bel accontentarsi comunque, cioè, non è che... Prego? È un bel accontentarsi, si tratta bene lei anche quando è fuori. No, beh, mangerei volentieri in un qualche ristorantino qui nel Vicentino dove mi trovo adesso, invece devo accontentarmi. Comunque, niente, era soltanto per quello che ho sentito questo viaggio, in 2 ore di viaggio... Queste, ritornare sul discorso del decreto di Berlusconi per la lista, sì, eccetera, e dimenticandolo, voglio, senza fare diciamo una lezione di giurisprudenza, che perché non sono all'altezza e non potrei fare una cosa del genere, però vorrei soltanto applicare un criterio razionale, logico, cioè nel senso che la Costituzione è sicuramente al servizio della libertà delle persone e non viceversa, come qualche ipocrita adesso vorrebbe farci credere. Il primo principio della libertà è quello di poter essere rappresentati da persone che poi hanno delle regole che poi devono essere applicate. Quindi non capisco questo mettere davanti il rispetto di regole davanti al primo diritto, che è l'atto fondativo di un atto costituzionale, che è quello di esercitare il diritto al voto. E ovviamente non più che una svista a queste persone, che siano di sinistra, di destra, non mi interessa, ma ci marciano perché lo sanno benissimo. E questo diritto è inalienabile, lo sa il capo dello Stato, che è il primo difensore della Costituzione, e quindi al di là però di tanta... Lo sa che non ho capito bene dove vuole arrivare il suo ragionamento, cioè secondo lei bisogna fare di tutto per consentire al PDL a Roma di essere presente? Assolutamente. È il diritto al voto, non è questione di destra o sinistra. Quindi però il diritto al voto, votare. Gabriele, le faccio notare una cosa. Le faccio notare che, Gabriele, la regola, io ostentano la regola che bisogna assolutamente seguire. Cioè, ho capito, ma applichiamo questa regola, non c'è, viene meno il diritto che su cui si basa la Costituzione, che è il diritto al voto. Però il diritto al voto è regolato da alcune norme, è regolato da alcune procedure. Se si violano queste procedure non ci si può presentare, altrimenti è facile dire diritto al voto. Che c'entra il diritto al voto? Il diritto al voto, ma certo, che deve essere garantito, ma è garantito comunque, perché non è che è impedito agli elettori di andare a votare nel Lazio. Ma in questo caso si applica, come insegnano gli anglosassoni, il buon senso. La Costituzione si basa anche su regole non scritte. Se è a servizio della libertà, ben inteso, se vogliamo fare invece retorica, ipocrisia, possiamo anche farlo. Però io su questo, Gabriele, io capisco il ragionamento e lo posso anche comprendere. Credo che se la procedura elettorale è basata su alcune regole, queste regole vanno osservate, altrimenti si cambiano queste regole e non si creano delle situazioni che potrebbero essere potenzialmente imbarazzanti, come la raccolta delle firme, il controllo delle firme, i timbri, quello tondo, le controfirme, ci vogliono 2 firme per presentare un certo tipo di lista, un tot di scritture, eccetera eccetera, il passaggio dal notaio, tutte queste cose qui, o decidiamo che non esistono, e secondo me non dovrebbero esistere, ma se esistono sono le cose che ci danno la garanzia che non ci sia la Babele, insomma, questa è la sostanza del discorso. Eccoci qui, 20:48, 800 24 00 24, per chiamarci. Allora, conclusione della zanzara, volata finale, dunque interventi un po' più sintetici se possibile. Mirko, provincia di Mantova, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione che dà modo alla gente e alla sua. Volevo solo dire qualcosina sull'episodio che ha coinvolto il ministro La Russa. tollerare la fisicità da un ministro che dovrebbe organizzare la sicurezza nel momento in cui un agente non è intervenuto a tempo, intervenire lui, e noi tollerare questo vuol dire che ognuno si può fare giustizia per proprio conto, anche fisicamente, perché poi ascoltando la vostra trasmissione si parlava del tipo di intervento fisico, c'è stato proprio una strattonare di un certo tipo, c'è stato proprio un impegno fisico. È questione di principio, questione di etica, questione di esempi. Se i politici, un ministro, colui che organizza la sicurezza, scende da un palco e strattona una persona, ci dovrebbe far pensare. D'altronde lo vediamo sempre, quanto si offendono, quanto violentemente danno un esempio che veramente è diseducativo. Però Mirko, io non sono d'accordo su questo, cioè sono d'accordo sul fatto che avrebbe fatto meglio non intervenire, e probabilmente non era mai successo che in una conferenza stampa del Presidente del Consiglio, o comunque in una conferenza stampa ufficiale, ci fosse un disturbo di questo tipo, e dunque non c'è mai stato bisogno evidentemente di una sorta di servizio d'ordine che doveva intervenire prima, sicuramente. Dopodiché poi lei parla di aggressione, fisicità, eccetera. Io francamente tutto questo non l'ho visto. Certo, era un La Russa che secondo me non faceva il mestiere suo, dunque una situazione un po' bizzarra, un po' particolare. Ma da qui a parlare di aggressione, eccetera, di fisicità o non so che altro, strattonamenti, sì, c'è stata qualche mano di troppo addosso, ma insomma niente di particolarmente rilevante, mi sembra, o no? La fisicità a un atto che è stato verbale sarà stato anche veramente grave, dove bisognava in ogni caso però rispondere con la parola, rispondere con la fisicità dal ministro che organizza la sicurezza. Allora, alla parola risponde con la fisicità. Non è che, almeno da quello che sappiamo, non è che la Russia abbia picchiato questa persona, ha invitato questa persona ad andarsene. Sì, non l'ha invitato. Io prima, mi sono messo nei suoi guardi, panni. Prima, se avesse preso mio figlio, se avesse preso così mio figlio, ma anche me stesso. E poi se tutti avessero fatto come lui, cioè le persone vicino a lui, a questa persona che ha parlato in questo modo inappropriato, tutti l'avessero preso come ha fatto il ministro per il bavero, uguale rissa. Ma Mirko, non lo so, a me sembra. Io le ho viste, le ho riste. Le immagini le ho viste prima. Sì, però le così, Sì, no, vabbè, Mirko, che c'entra? Adesso non siamo. No, se uno non riesce a gestire i suoi istinti, questo qua è una persona che non è riuscito a gestire i suoi istinti. No, ma su questo lei ha ragione. Dopodiché, non bisogna esagerare tipo di violenza che c'è stato, perché non c'è stato nessun tipo di violenza. Poi, sa, la violenza è anche, non è mica solo quella fisica, diciamo, come le dice di La Russa. Violenza è anche uno che non permette il corretto svolgimento di una assemblea, di una conferenza stampa, anche lì c'è violenza. Va bene, però quando c'è l'atto fisico, quella diventa guerra, sopravvazione fisica uguale ferita, uguale la guerra nasce da queste cose. Quando dal dialogo, seppur anche a certi toni, si passa a muovere le mani e arrivare alla fisicità, lì nasce la guerra, nascono i feriti, nasce la morte. Vabbè, cioè, amico, va bene questo volo pindari così. No, ma va benissimo, per carità, io lo capisco questo ragionamento. Ripeto, sono d'accordo sul fatto che La Russa non doveva scendere da quel palco e doveva far risolvere la questione a qualcun altro. Assolutamente. Evidentemente non c'era questa persona per risolvere la situazione. Allora, si doveva, mea culpa lui, che non ha delle persone al suo braccio destro che non organizzano bene. Allora ti prendi la tua fetta di nostre parti, si prende coglioni in tasca, ti organizzi bene, ma non fai vedere alle persone che tu scendi, prendi per il bavero lo strattore. Cioè, nel senso, è successo, può succedere ancora, può succedere anche a me, però nel momento in cui discutiamo in una trasmissione così, che si dicono tante belle cose, dire che non è niente di grave, per me è gravissimo, perché poi le cose nascono da questi comportamenti, dalla morale delle persone. Perché se la politica o la partitica, che non ha più morale, non ha più etica, non ha più rispetto delle persone, dove i stralaureati si offendono e si mandano delle ingiurie, ma noi, i nostri ragazzi, i nostri figli, cosa gli insegniamo? Ho capito, però mi sembra che in questo caso lei stia andando un po'... No, vabbè, ma sto dicendo perché è importante, secondo me, sottolineare che è una cosa grave, vabbè, che poi, ripeto, può succedere anche a me. No, ma ho capito, però lei dice è grave perché è un ministro. Grazie. Demetrio da Roma, velocemente, Demetrio. Sì, buonasera. Buonasera. Prendendo spunto dal nuovo esempio di aggressione che ha fatto poco fa l'ascoltatore, volevo fare io un esempio in parallelo di cosa può essere un'emergenza democratica. Prendo spunto dalla conferenza stampa di ieri di Berlusconi, però non voglio parlare dell'aggressione, dell'intervento di quel ragazzo, voglio risottolineare per una volta ancora, dopo 2 anni dall'inizio della crisi, che ieri Berlusconi in una conferenza stampa per l'ultima volta ha detto: non c'è la crisi, tutto va bene. Allora, questo mi dà lo spunto per sottolineare un'emergenza democratica. Siccome lo sanno anche i bambini, cioè chi si intende un poco di bilancio statale e non ci vuole, non bisogna essere laureati o neanche diplomati, sa che le risorse di uno Stato sono prodotte dal gettito fiscale. Il gettito fiscale è proporzionato, sì, al prodotto interno lordo. Demetri, io le avevo chiesto un intervento breve, però lei parte col bilancio dello Stato. Ho finito. Allora, nel 2008 Berlusconi diceva che tutto andava bene e non c'era crisi. Già nel 2008 sapevamo che nel 2010 ci saremmo trovati con risorse in meno, perché se il gettito fiscale del 2009 è di meno 5, ovviamente il bilancio dello Stato nel 2010 lo fa con le risorse dell'anno precedente. E allora questo significa meno scuola, meno sanità, meno diritti sulla viabilità e le infrastrutture. E questo, secondo me, è un'emergenza democratica. Ah, è questa la vera emergenza democratica, ho capito. No, non è questa la vera. Anche questa, perché se c'è un establishment che conferma lo status quo e basa tutto sulla comunicazione, perché dopo il ventennio, sì, di Berlusconi praticamente non è cambiato. Demetrio, nulla. Io le ho chiesto un intervento sintetico. Ecco, questo è l'intervento. Questo sintetico. È un intervento sintetico. Lei il è stato. Non lo so. Il Premier dice che non c'è nessun tipo di problema, che la crisi non esiste, ce lo dice da 2 anni, sì, e adesso nel 2010 e nel 2011 ci troveremo con molte meno risorse. Vabbè, e l'impatto, d'accordo, negativo arriverà con tutti i disoccupati, con, vabbè, meno sanità, con meno scuola, con meno ricerca, con meno infrastrutture e il meno di tutto. E questa è un'emergenza democratica, secondo Va me. Bene, grazie. Alberto, provincia di Modena. Pronto? Sì, dica. Buonasera. Volevo fare una domanda sostanzialmente a lei, poi in modo più ampio anche magari qualche ascoltatore. Faccio una breve premessa, cioè mi riferisco in sostanza alla conferenza stampa che c'è stato ieri del Presidente del Consiglio, no? Dove c'è stata una sua versione. Sì, deve essere veloce però, Alberto, sente la musica. Sì. Allora va bene, allora bando le premesse, ci sono state tutta una serie di riscontri oggettivi che ci fanno dire che in sostanza le cose sono, diciamo, i fatti sono da imputare a problemi che hanno avuto i funzionari di partito. Siccome abbiamo avuto una versione che ignora completamente questi aspetti, ci dà una versione. Alberto, la domanda qual è? La domanda è possibile che la stessa stregua di questo episodio ci vengano fornite delle spiegazioni su altri fatti riguardanti politica, giustizia, economia? Alberto, non c'è tempo per la domanda. Siamo alla conclusione della puntata di oggi, ci sentiamo domani 18:30. La Zanzara.